non può compiere quello che è appunto il primo gesto di una madre quando partorisce un bambino, cioè quello di prenderlo, riconoscerlo e tenerlo a sé. Si dice che sia l'imprinting per un bambino la cosa più importante, no? L'abbraccio materno, e lei non lo fa, lo nega, e tutto il resto è un po' tutto il resto della storia che va avanti è un po' il cercare di comprendere che cosa è successo a questa ragazza. Esattamente, perché questa ragazza decide, insomma non è costretta, però decide coscientemente di non allevare il suo bambino, e quindi lo lascia in ospedale. E tutto il romanzo un po' una riflessione su questo primo gesto che non ha fatto e invece quello che ha fatto, cioè di abbandonarlo in un certo forse senso. Forse sai, anche questa cosa che dici della coscienza, credo che sia a metà tra la consapevolezza e l'inconsapevolezza, perché comunque vive la gravidanza come una sorta anche di rimozione di questa trasformazione che le accade al suo corpo. È come se vivesse una sorta di vigilanza, ma anche di sonno. Sì, si ha quasi l'impressione, insomma, che Anna sia quasi superficiale nei confronti della sua gravidanza e del bambino che ha abbandonato. Invece io personalmente ho avuto l'impressione che lei come personaggio stesse un po', come dire, su un filo, che non avesse il coraggio di approfondire, di andare a fondo a certe cose, perché altrimenti sarebbe crollata. E credo che proprio sia questo, che ci sia un confine oltre al quale diventa troppo. In cui la vita diventa troppo da poterla sopportare, da poterla resistere, da poter resistere. E quindi è come se. E questo ha anche a che fare con la scrittura per me. Il gesto dello scrivere è proprio un contenere, un qualcosa che altrimenti può esplodere. E per chi in estate fa lunghi viaggi con la macchina o semplicemente vuole rilassarsi ascoltando qualcosa di interessante, ci sono come sempre gli audiolibri. Abbiamo scelto Grandi Ustionati, che è stato scritto da Paolo Nori, pubblicato da Marcos y Marcos, nella versione di audiolibro letta dallo stesso Paolo Nori il 3 febbraio dell'anno scorso ai Frigoriferi Milanesi, che è appunto uno spazio culturale che si trova a Milano. Leo Ferrari, il protagonista di questo romanzo, è ricoverato nel reparto Grandi Ustionati di Parma quando riceve alcune visite di persone conosciute, ma anche non note, insomma non conosciute. Ma una di queste persone in particolare lo tocca profondamente, ed è l'egiziano che gli ha salvato la vita tirandolo fuori dalla macchina in fiamme. Sentiamo allora Paolo Nori che legge Grandi Ustionati. Venuto Mario a trovarmi per salutarmi, che poi andava in Russia per 2 settimane. Mario, gli ho detto, c'è della gente strana qua dentro. Sì, perché fuori, mi ha detto Mario. Come fuori? Ti ricordi quando è venuto Miasma a trovarti? Non mi ricordo. E credo anch'io che non ti ricordi, mi ha detto Mario. Erano i primi giorni che eri qua dentro, eri debole molto. Un giorno sono venuto a trovarti con Miasma, se non ti molesta entrerei prima io, mi ha detto Miasma. Non mi molesta, gli ho detto. E lui è entrato, io ho aspettato fuori. Aspetta un quarto d'ora, aspetta mezz'ora, aspetta 40 minuti, Miasma non si vede. Erano i primi giorni che eri qui, ogni tanto arrivava qualcuno che ti voleva vedere, alla fine c'era la sala d'attesa piena di gente e Miasma non si vedeva. Chi c'è dentro? Chiedevano. Miasma, ma cosa farà? Si vede che hanno molte cose da dirsi. Dopo un'ora è uscito, gli ho chiesto come sta. Non saprei, mi ha detto Miasma, ha dormito tutto il tempo. L'altro giorno mi viene a trovare un signore, mi riconosci, mi chiede. Ancora, ho pensato. No, gli dico, non ti riconosco. Io sono uno di quelli che t'hanno tirato fuori, mi dice, quel venerdì là. E mi racconta l'incidente per filo e per segno, che c'era un'argenta con su 2 albanesi che mi hanno centrato nel serbatoio, che lui era a letto, si è svegliato di colpo, l'ha svegliato rumore, è sceso di corsa in pigiama con altri 2, hanno provato a tirarmi fuori, la macchina era una palla di fuoco, che intorno c'erano delle persone che gli dicevano venite via, lasciate stare, che lui mi ha detto non se lo sarebbe mai perdonato, che sentiva che dentro io facevo un rumore rrr, rrr. Che se non mi avesse tirato fuori avrebbe sentito questo rumore per tutta la vita, che poi alla fine sono riusciti a prendermi per la cintura, a sollevarmi al di sopra della carrozzeria della mia macchinina, che la capote di plastica era liquefatta, mi hanno tirato fuori dall'alto, che dopo un secondo che mi hanno estratto la macchina è esplosa come nei film, che io quando sono uscito mi sono seduto tranquillo sul marciapiede a aspettare l'ambulanza e gli ho detto guarda la macchina a puttane. Ero lì che camminavo con Rocco per il corridoio. Rocco è un altro dei degenti di questo reparto grandi ustionati. Prima era pieno il reparto. Adesso molti sono guariti, siamo rimasti in pochi oramai. Io, Rocco, un bambino di Modena e una ragazza di Monticelli. Rocco è qui da prima di me. Si è messo in piedi prima di me. Cammina peggio, però. Anche sua mamma Rocco gli dice sempre: guarda Learco come cammina bene, impara da lui. Ero lì che camminavo con Rocco, io 48 giorni che sono qua dentro, lui quasi 80. Ero lì che camminavo con lui, che da quando ci siamo messi in piedi, io con Rocco appena possiamo non facciamo altro che andare avanti e indietro per il corridoio, eravamo lì che camminavamo, da dentro il cucinino dove stanno le infermiere quando non hanno niente da fare abbiamo sentito un discorso che ci ha inchiodati, ci ha ridotto tutte e due all'immobilità. Cosa facciamo? Diceva un'infermiera da dietro la porta, che adesso stanno guarendo tutti. Come stanno guarendo? Diceva l'altra infermiera. Ah, il bimbo e la ragazza di Monticelli sono quasi a posto. Rocco e Learco, hai visto come vanno via spediti? Ormai sono pochi giorni. Beh, almeno 20, diceva l'altra infermiera. E se in 20 giorni non viene dentro nessuno? È già successo. Ah, beh, io in aspettativa non ci vado, E neanche in geriatria a pulire delle merde, diceva la prima infermiera. Bene, teniamo qui uno, come abbiamo fatto con Giovanni. Ti ricordi con Giovanni? Diceva la seconda infermiera. E mi ricordo, sì, poveretto. L'abbiamo tenuto in ostaggio 15 giorni che era guarito. Faremo così anche stavolta, diceva la seconda infermiera. Ne teniamo qua uno fino a che non ne entra uno nuovo. Diceva la prima. Io in geriatria non ci vado, su questo non ci piove. Io e Rocco ci siamo guardati con uno sguardo come per dire: ce la giochiamo io e te. Un attimo è stato, poi ci siamo girati, siamo rientrati nelle nostre stanze di corsa, lui zoppicando vistosamente, io zoppicando un po' meno. In Giappone sono alto, in Giappone sono alto, in Giappone sono alto. Anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri è tutto. Un saluto e una buona lettura da Alessandra Tedesco.